Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. E la mia non è propaganda, amici. La mia è... Dai, non fate così, non fate che poi si dice che il pubblico di Sanremo... Dai, ti prego. Ma... Senti, vai avanti, ma no, ma io ho, c'è differenza fra la satira e la propaganda. Però è bello. Ascoltiamo, d'accordo? Dai, basta, vai avanti, vai tranquillo. Se non... Esca, allora, basta. Dai, aspetta, forza. Beh, diciamo che questa è stata l'unica... nota veramente interessante del festival. Non che sia stato un brutto festival, poi ne parliamo, questa mattina avremo tutto il tempo, però finalmente la profezia che si è autoavverata è stata in questo momento altissimo in cui una clac chiaramente prezzolata, si vedeva benissimo, sono i soliti urlatori da platea, vanno lì improvvisamente quando Crozza inizia il suo sketch in cui faccia Berlusconi, niente di nuovo sotto il sole, l'abbiamo già visto a Ballarò qualche giorno prima, Berlusconi che tira i soldi a manciata alle persone, ma se l'è sparata subito, così si è tolto il pensiero, visto che tutti non stanno aspettando altro di Crozza che facesse Berlusconi, visto che sembrava che il fulmine che si è abbattuto sulla cupola di San Pietro, che preannunciava il Papa che se andava con le valigie in mano, è sceso sull'Ariston e ha fatto Berlusconi, e improvvisamente c'è stato il vocio di platea, improvvisamente gli aizzatori, basta, questa non è satira, state facendo politica. Ma quale politica? Una cosa vista, stravista. Berlusconi che canta. Sai che male che fa il mondo in questo momento. Io sono dell'idea che il Festival di Sanremo non sposterà nemmeno un voto, non cambierà nemmeno un'intenzione di voto, anzi, se proprio si vuole, in fondo tutto sommato questo ulteriore passaggio così somigliante all'originale, così assimilabile comunque, anzi, devo dire molto più moderato rispetto alle intemperanze dell'originale che passa in televisione, di televisione in televisione, tutto sommato non fa altro che ripercuotere un'immagine televisiva della persona che sentiva lesa. Io ho fatto un piccolo esperimento ieri mentre guardavo Sanremo, poi parleremo nello specifico se è stata controprogrammazione malevola nei confronti delle tribune. Beh, giravo ogni tanto su Rai 2 e guardavo i politici. In effetti non è che ha cambiato le intenzioni di voto, ha affossato radicalmente chiunque fosse dall'altra parte. Per vedere chiunque sia, qualunque politico, girato un attimo, c'era un momento, c'era La Russa, poi c'erano altre persone, adesso non ricordo bene, dovrei citarli tutti per par condicio, ma giravo perché ero più interessato a guardare Sanremo. Dava l'idea di persone che si affannassero in una stanza chiusa senza collegamento verso l'esterno, sembravano dei pesci dentro il loro vaso pieno d'acqua che giravano e sbattevano sul vetro. Si vede chiaramente che l'esercizio della tribuna elettorale, cioè anzi della conferenza stampa elettorale in quel momento, era totalmente superfluo. Forse a questo punto, vista la scelta di mantenere Sanremo, sarebbe stato meglio togliere le tribune che andavano contro Sanremo. Detto questo, passato il momento di Crozza, che poi per par condicio l'ha fatti tutti, però chiaramente gli altri non passeranno alla storia, di Berlusconi ancora oggi si parlerà su qualche giornale, domani già non se ne parlerà più, già sarà dimenticato. Solo un'annotazione: se fosse stata veramente una satira coraggiosa, se veramente la satira non guarda in faccia nessuno, se veramente la satira, come dicono comunque gli attori satirici, comici, ogni volta che vengono attaccati, inchiodati, censurati, cacciati, bulgarmente edettati, dicono ma noi dobbiamo essere cattivi, sennò come ci siamo? Ma perché ieri Crozza non ha fatto il Papa? Il vero punctum, il vero grande momento altissimo della satira era il Papa tedesco con le valigie in mano, altro che Berlusconi, che sono 20 anni che vediamo le macchiette di Berlusconi. Perché non hanno avuto il coraggio di fare il Papa? Perché hanno dimostrato veramente che la satira è al di sopra di tutto e di tutti? Perché sono lasciati prendere anche loro da questa sorta di prudenziale bavaglio, il Papa non si tocca? Non è più Papa, ormai si è spapato, ormai è un cardinale come un altro, è giusto, è un momento epocale. Abbiamo passato un momento che non passavamo da secoli E la satira non parla di quello, nel momento più alto e più visibile, no, ritirano fuori Berlusconi. 800240024, l'avete visto il festival? Dai, confessate, non dite le solite cose. Ho letto un buon libro, non guardo queste cose, e ho ascoltato musica classica, ho stappato una bottiglia pregiata di vino e l'ho centellinato guardando, non so, la notte stellata. Sono stato con il mio compagno, ci siamo tenuti nella mano e ci siamo raccontati i momenti più alti della nostra vita. Ho letto... abbiamo fatto un certamen classico in casa, come facciamo tutte le sere. No, avete guardato Sanremo come tutti noi, con le frappe in mano e con il bicchiere del vino nell'altra. Dite la verità e raccontate. 800240024. Lucianina, ecco che bel cappellino che ti sei messa. Non sento una mazza, Fabio. Intuivo, ma ma eccomi qua! Ma è un misto fra Cenerentola e Crudelia De Mon, non so! Ma senti, fatti furbo! Sì. Guarda che bel cocchiere, un esodato della Fornero! Sì. Ecco, ora scendo! Entra che ti aspettiamo! Ma ecco qua! Guarda. Adesso che roba! Siamo... Guarda! Aiuto! Ecco qua, hai visto che hai due cocchieri qua, hai due lacchè? Ho visto! Sono due della De Filippi di Uomini e Donne! Ecco, stavo già per ammazzarmi, non so se avete notato. Tutto poi nel copione, naturalmente, ognuno ha tenuto il suo ruolo, come ci aveva detto già giorni fa il buon Maffucci, che se ne intende di Sanremo, se ne intende di Fazio. Ieri anche in platea è stato salutato, ringraziato il grande patron di Fazio, colui che l'ha scoperto, colui che ha fatto anti Sanremo. Ha detto: ma Fazio mica è scemo, che si va a mettere contro il mondo? Non si mette contro nessuno, fra un festival molto equilibrato. Infatti è salito sul palco, ha appoggiato Crozza, via, smettetela, state buoni, mi raccomando, fermi tutti, carino, come un parroco che ferma le intemperanze durante la recita di fine d'anno, capito? Che improvvisamente i genitori si arrabbiano perché i bambini non sono ben accompagnati dalla zelatrice che suona il pianoforte mentre fanno la recita a Gesù Bambino, ecco, una cosa del genere. E c'era anche la Litizzetto, che ha fatto quello che fa la cattiva un po' sboccata, la vecchietta satanata che sta vicino al chierichetto, che ormai ha lasciato ogni istinto negli empiri più alti. Insieme fanno bene, una sorta di rimpallo fra tentazione che non avrà mai soddisfacimento e tentazione ormai scomparsa nei meandri lontani delle memorie remote. Marta Cagnola. Eccoci qui, che grandi momenti a Sanremo. Dove eri te nel momento dell'esplosione della clac? Dove stavi te? Allora, io in quel momento ero in sala stampa, la sala stampa che molti sanno è sul tetto dell'Ariston. Allora, ribadiamo, l'Ariston è un piccolo cinema, multisala. No, diciamolo che è un buchettino. L'Ariston, voi lo vedete, piccolo. Lo vedete in televisione, mi sembra chissà che. È un cinemino di paese a vederlo da fuori, una cosa del genere. Esatto, la sala stampa, dov'è? Sul tetto, un tetto che ha un soffitto che si apre, che si chiude, che diventa anche cinema all'aperto d'estate. Quindi noi eravamo tutti in sala stampa sopra il teatro, con qualche collega dentro il teatro per monitorare tutte le reazioni. Perché? Perché ce l'aspettavamo, perché lo sapevamo perfettamente, sapevamo che la vera paura era esattamente quella che hai detto, cioè che lui potesse fare il Papa, ma sapevamo anche che non l'avrebbe fatto. Ma la vera paura perché, scusa, ma mi sai perché? Pensate che si apriva il cielo e scendeva quel fulmine sulla cupola di San Pietro e entrava dentro l'Ariston. Qual è il problema? Qualcuno lo temeva sicuramente. Diciamo, ormai per Berlusconi non se la fa più sotto nessuno, per il Papa no, bisogna stare attenti. Ormai si è spapato. Quella era l'unica preoccupazione. Vabbè. Tutti sì, temevano, girava voce, Crozza forse farà il Papa. No, non è che tutti lo temevano, in sala stampa lo si sapeva, il pubblico se lo chiedeva. Quindi lui era venuto col vestito da Papa, non gli hanno fatto mettere, questo vuol dire? Secondo me non se l'era neanche messo in valigia, perché quella era la premessa. Papa no. Oddio, magari no, forse se l'era messo in valigia perché contando i tempi... Beh, bastava una camicia la notte, non ci voleva molto. Poi, e un paio di pianelle, ecco fatto il Papa. Ti dico anche un dettaglio proprio tecnico. Uno degli autori di Crozza ha detto che lui non faceva il Papa, effettivamente non lo fa da molto tempo. E quindi però è stato un atto di vigliaccheria, diciamo la verità. Però c'è da dire che effettivamente anche questa spiegazione... tecnica. Era la ciliegina sulla torta. E non aveva dei testi probabilmente forti. Però, allora, si sa che a Sanremo non si può fare tutto. Si fa quasi tutto, ma non tutto, tutto, tutto, tutto. E secondo me nel non tutto, tutto, tutto, anche parlando, insomma, perché come sai, poi alla fine le cose si scoprono per bene chiacchierando dopo la serata, in quell'oretta che si passa così rimuginando. E cosa è venuto fuori in quell'oretta? Allora, è venuto fuori, appunto, abbiamo subito chiesto cosa pensava Gubitosi, che era lì tranquillo e sempre abbastanza trasparente come lui, perché questa nuova dirigenza Rai rispetto a quella precedente, che era molto così molto visibile, insomma, lui è abbastanza trasparente. Cioè, trasparente vuol dire che cioè, è un uomo inconsistente, stai dicendo praticamente. No, lo sto proprio dicendo visivamente. Ma c'era seduto lì? C'era. Ah, per questo non l'abbiamo visto, perché è trasparente. Perché nei festival precedenti c'erano poi alcuni consiglieri che facevano sempre gran caos, c'erano poi... Diciamo che una tradizione è che nei festival di Sanremo, nelle prime file ci vanno i grandi dirigenti Rai, con le loro mogli, con gli amici, tre file dietro magari anche le amichette che non si deve vedere, ovvio, diciamo, no, le mogli non si portano mai in effetti. Vanno sempre i grandi dirigenti Rai, perché ogni loro sottopancia, capibastone, porta borsa e via dicendo, e stanno tutti lì, ogni tanto vengono inquadrati, il conduttore deve dire saluto oggi Duccio il dottor Forzano tal dettaglio. Duccio Forzano non ha indugiato in quelle inquadrature, mi pare, insomma. Maffucci sì, l'ha fatto vedere, l'amico Maffucci si è visto. Beh, ma amico anche nostro, visto l'altra puntata di Melob, possiamo dirlo, insomma, ormai è... Quindi ultima cosa, Marta, poi dopo riprendiamo tra un istante, voglio sapere, il discorso della clac, girava voce... Prima del festival si capiva, si vedevano degli strani signori in doppio petto blu con la cravatta a pallini che giravano e già si davano di gomito, si mettevano nei posti strategici pronti a fare la clac, perché è sempre successo. A Sanremo ci sono sempre stati contestatori che entravano, si mettevano lì e poi basta, a un certo punto si comincia, uno comincia da un angolo, l'altro riprende dall'altro angolo, c'è l'impressione che tutta la platea sia unanime e invece in realtà sono quattro gatti. La tradizione della clac nel bene e nel male a Sanremo c'è da sempre, infatti vi consiglio di andare a cercare qualche cinegiornale degli anni 60, ci sono online, nei quali si racconta sempre dei napoletani, perché erano napoletani di provenienza, i napoletani così venivano chiamati, che erano delle clac organizzate che venivano pagate dall'uno o dall'altro discografico per orientare il festival. C'è anche da dire che invece adesso questa categoria è sparita, ma Sanremo è una cittadina piuttosto vivace, turbolenta e tempestosa, quindi si sapeva che le persone si sarebbero preparate. Io vorrei fare un confronto all'americana, non sono ancora riuscita perché, insomma, essendo qua è tutto più complesso. Mi piacerebbe ascoltare le voci delle contestazioni di ieri sera e quelle di Celentano l'anno scorso, perché secondo me... Gli qualcuno stessi. Potrebbe anche essere lo stesso. Cioè dei pensionati di Sanremo che vengono prezzolati e vanno lì a fare la clac. No, secondo me prezzolati no, però secondo beh, me... Beh, ma se danno già il biglietto, il panino e l'aranciata, già è considerato un pagamento. Il biglietto sì, è difficilissimo, no, vero? Ma possono anche investirci di loro, secondo me. Secondo me però, vabbè, poi a parte lo smarrimento del sindaco che ha detto no, non erano posti di quelli riservati agli assessori. No, perché Fazio ha detto a un certo punto, Fazio ha detto li abbiamo identificati, come se fosse un maresciallo dei carabinieri, ci abbiamo visto, adesso ti sistemo io. Chi hanno identificato? Ah, certo, sì. Allora, poi anche perché continuo a raccontarti il momento straordinario in sala stampa. Allora, qualcuno è sceso a controllare la situazione, altri sono usciti a controllare la situazione e io con altri colleghi abbiamo chiesto di avere qualcuno della RAI e qualcuno degli autori. Allora ci hanno portato Massimo Martelli, uno degli autori di Fazio, che molto pacatamente ci ha spiegato la situazione, l'ha dovuta addirittura a un certo punto spiegare al microfono nella sala stampa. E qual era la situazione? La spiegazione era, è plausibile, effettivamente c'erano queste due o tre persone che hanno cominciato questi cori organizzati, sono stati individuati, allontanati e tutti i cori che sentivate fuori non erano delle contestazioni ma le contestazioni ai contestatori. Ah, vedi, quando c'erano fuori, non fuori Crozza, ma fuori i tre rompiscatole che erano venuti lì. Fuori i tre rompiscatole. Ah, esatto. È molto chiaro. Però è stato ambiguo il messaggio. Fermati un attimo. Marta Cagnola, inviata di Radio 24 a Sanremo. Luca, cominciamo con gli ascolti. Buongiorno. Confessa, hai visto Sanremo, Luca? Sì. Sì, l'ho visto. Grandissima delusione. Perché? Cantanti... Spegni la radio perché c'è un eco. Fastidiosissima. Ecco, fatto. Cantanti, grandissima delusione. Crozza poteva anche non fare quell'imitazione. Ma no, non perché uno dice... Perché è già vista, vecchissima, cioè scontatissima. Ma guardi, io in due giorni ho visto due grandi delusioni. Uno che abbandona la nave, che è il Papa, è una cosa da non fare, perché il Papa deve portare la croce fino in fondo. Sì, vabbè, abbiamo già detto ieri, non si scende dalla croce, la croce senza scale, vabbè. Grandissimo esempio Giovanni Paolo II, non ce ne saranno mai più. Sì, vabbè, adesso non c'entra una mazza, però, mi scusi, con il sommo rispetto per i sommi pontefici vivi e dimessi. Delusione di Sanremo che... La rimette sullo stesso piano, il Papa che se ne va e Crozza che fa Berlusconi, sono due eventi che si equilibrano, si bilanciano come impatto nella nostra emotività, secondo la stessa cosa. Sicuramente. Io ho il suo punto di vista, Luca. Mi fa piacere. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Invece lei? Ha guardato Sanremo? Pronto? Sì, l'ascolto. Ah, ok, scusi, non l'ho sentito. No, io non l'ho guardato perché ero a prove di canto, perché canto in un coro, per cui non l'ho guardato. Sono forse tra i pochi che non ha guardato Sanremo. E allora perché ha telefonato? Cosa vuole dire? Perché sul fatto che diceva si è stupito del fatto che non hanno invitato il Papa. Beh, se io fossi un comico e un satirico, quello avrei fatto. Sì, era sicuramente, sono d'accordo con lei che era sicuramente... Cioè, uno poteva fare tutto, il Papa vestito da tirolese con le valigette, il Papa vestito da Papa che se ne va, cioè tutto si poteva fare, e se si vuole essere cattivi, satira deve far male, il toccare laddove fa più male, cioè a chi può dar fastidio Berlusconi, che l'altro è molto più bello dell'originale, che tira i soldi così con le manciate, è un'immagine antica, vecchia, già vista tra l'altro, vista 3 giorni prima. Io credo che sia un'ulteriore dimostrazione del fatto che siamo, anche chi come me non lo è, ma siamo cattolici nell'anima, nel senso che nel momento in cui c'è un qualcosa che tocca l'etica morale, non c'è più destra e sinistra, ma c'è cattolico e non cattolico, e qui ieri sera si è dimostrato che comunque il Papa entra anche dove... Ma guardi, esisteva una antichissima tradizione, ne hanno scritto molto, si chiama Risus Pascalis, per cui anche i più grandi cattolici credenti, per Carnevale, prima della Pasqua, così, facevano delle cose divertentissime. Il cattolico non è che sia una persona mesta, una persona a cui non piace ridere o scherzare anche sui propri limiti, sulle proprie difficoltà. Non credo ci sia un senso blasfemo. Io dico, se sei un comico e devi far arrabbiare, come... la rivista satirica francese che ha fatto vedere il profeta che consumava atti innominabili con Gesù Cristo e via dicendo, prendendosi tutti gli strali del mondo, però hanno fatto qualcosa di cattivo. Una piccolissima satira, imitazione del Papa, non avrebbe dato fastidio a nessuno e dimostrava che stavano sulla notizia almeno. Morena, come la pensa? Buongiorno. Marco, quello che penso io ha già detto lei praticamente. Sono d'accordo anch'io, la satira sul Papa sarebbe dovuta fare effettivamente. Non penso che gli italiani abbiano avuto problemi. Ma senza offendere nessuno, solo che era il momento. Ma il punto che si chiama satira. Con delicatezza, capito? Dicevo appunto alla signorina prima, Twitter, ritrito, Berlusconi, è troppo comodo. Non so, sembra che si voglia proprio... Si è voluto andare un po' più sul sicuro, no? Sì, sul sicuro, però quando uno va sul sicuro non arriva da nessuna parte. Sì. Ecco, infatti, si è visto. Allora, ma fatto nessuno si è arrabbiato. Io stantino ho visto i giornali, anche quelli che più dicevano sarà il Festival dell'Unità. Alla fine non è importato niente a nessuno. Si sono tolti il pensiero, no? Potranno farlo ed era la stessa cosa. E io appunto non ho guardato anch'io Sanremo, ma anche una scelta. Non mi sono molto simpatici. Crozza non è quel personaggio che, almeno io ritengo che non sia il suo punto di vista. Personaggio, esatto. che voglia far credere, che voglia dimostrare, no? Di fuori dalle parti, di sopra di tutto. Lui non è un personaggio, ma non vuol dire, cosa non ha mai detto se sopra le parti. È un comico che gli piace interpretare alcuni personaggi, che sia lui come persona non ci interessa molto, ci interessa vedere le parti che rappresenta, a volte più efficace, a volte meno. Fermi tutti, Andrea Amato, buongiorno. Andrea Amato, non stiamo cercando. Pronto? Ah, ecco Andrea Amato, eccoti qua, scusa. Andrea Amato, direttore responsabile di tvzoom.it, che ci sta dando una prima riflessione su quelli che sono i dati d'ascolto, che noi stiamo cogliendo emotivamente le impressioni di chi ha seguito Sanremo, ma quello che conta in soldoni sarà quanto Sanremo poi ha fatto. Dammi subito qualche indicazione, poi le analisi più approfondite le facciamo più avanti. Allora, abbiamo una prima parte di Sanremo con 14,2 milioni di ascoltatori e il 47,6%. La seconda parte 8,1 milioni e 53,54%. Quindi con una media ponderata del 48,29% e 12 milioni e 9 di ascoltatori. Riesce a farmi già un bilancio rispetto all'edizione precedente? Esatto, Morandi l'anno scorso aveva fatto 14 milioni e 3 nella prima parte con il 48,50 e il 55% con 8,4 milioni nella seconda parte, con la media ponderata di 12 milioni e 700 mila con uno share del 49,55. Chi vince quindi? Quindi vince Morandi, però Morandi l'anno scorso aveva Celentano. E Crozza non è Celentano, non attira ascolti, quindi comunque sia il risultato di Fazio è incredibile quest'anno. È comunque andato bene, diciamo, rispetto sì. Alla televisione quaresimale che già ci stiamo sorbendo da un anno, devo dire è stata una botta di Viagra che non si aspettava nessuno. Ho anche le curve e il Croz, la contestazione di Croz è partita al 50% alle 22.29 ed è arrivata al 52.82 alle 22.32. Ma il picco Croz l'ha fatto con Montezemolo alle 22.57 con il 57.98% di share. Forse l'ha fatto perché era la ripresa dopo la contestazione? Oppure... No, aveva già fatto Bersani, aveva già fatto Bersani che aveva comunque sia il picco con 17 milioni. Quindi Montezemolo era... Quindi senza tenere conto delle controprogrammazioni. Consideriamo che quella era l'ora della conferenza stampa, dall'altra parte importante, come si era detto ieri. Quindi rispetto a quanto avevamo ipotizzato, come aveva detto appunto anche Marta Cagnola, hanno sparato a palle incatenate contro la politica, quello sì. E hanno vinto assolutamente, non ci piove. Le tribune elettorali su Rai 2 hanno fatto l'1,5%. Cioè, ma onestamente, adesso al di là delle... Ma non conveniva non mandarle in onda per niente. Qual era il senso di mandarle? Che per legge non possono fare diversamente in questo momento in Rai. Sì, ma è una cosa tristissima, come dire, una cosa non fare per forza, ma non c'era nessuno. È come andare un attore che si affaccia, si apre il sipario e non c'è nessuno in platea, deve comunque lo stesso fare la sua parte. Fermiamoci un attimo, Andrea Amato, andiamo alle informazioni della borsa, poi facciamo qualche valutazione più intensa. Mi servirebbe soprattutto sapere qual è stato l'ascolto nella scena muta della coppia gay che si dava ai cartellini, che oggi beati loro sono a New York. Io mi sposerei in tonti per poter andare a New York invece che lavorare domani. Melog, la realtà condivisa. Cuore fa rima con amore. Oh, bravissima, questo si sa, è nota, una cosa nota. In questi giorni sul web circola un video realizzato da una coppia che si sposerà tra un paio di giorni, proprio il giorno di San Valentino. E allora, siccome l'argomento secondo noi riguarda tutti, abbiamo pensato di invitarli qui. Non me ne voglia il mondo, non pensate che sia mosso da rabbia profonda omofoba. Ma è una delle cose più pallose che si è vista al Festival di Sanremo. I due ragazzetti innamorati che si scambiano i cartelli. Cioè, una noia, anche perché l'hanno già tutti visto in internet. E anche perché ci rode un po' alla fine, vedendo che non ci possiamo sposare in Italia, andiamo a New York. Ma vabbè, non può andare in tanti posti. Beati loro, mi diceva Fabrizio Intonti, ma che vuoi? Cos'è questa sorta di mito del pauperismo, a New York ci si va con 400 euro, saranno lì adesso, figuriamoci, sarà pieno di gente che vorrà fotografarli, vederli, immaginarli. Sì, è vero, una battaglia sacrosanta, giusta, oddio, non è proprio quello che in questo momento vediamo come più impellente rispetto al top manager di importantissime istituzioni in manette, papa che se ne vanno, altre persone inquisite, elezioni alle porte, fulmini che cadono, cataclismi, momenti di disperazione, però ci ha fatto piacere. Era, diciamo, il contributo da pagare al politicamente corretto, fatto anche qui però nella più scontata delle maniere. Si è vista una cosa che già si era vista, niente di nuovo, non si è inventato nulla. Come Crozza ha fatto vedere il Berlusconi, che si era visto già più volte, e Fazza ha fatto vedere la coppia dei ragazzi innamorati con i cartelli, che già gira su YouTube da settimane. Come mai qualcuno che è probabilmente giustamente remunerato per fare l'autore, trovare idee, portare qualcosa di nuovo, al di là di questa sorta di nuance su tutte le sfumature dal terra di Siena bruciata al marroncino chiaro, che era la nota dominante, la scenografia di Sanremo, non c'era nulla di nuovo. Marta Cagnola. Eh sì, perché noi a quel punto ci aspettavamo un po' di limone, cioè dovevano baciarsi. Ma, niente, ma no, ma poi una cosa già vista, era esattamente il replay del video che sta su YouTube. Beh, devo dirti, forse già per la prima serata di Rai 1, cominciare con Marco Alemanno, anche senza definirlo compagno di Lucio Dalla, però cominciare con Marco Alemanno. Anche lì non l'hanno detto, però. Così, sì. Non l'hanno detto, no? Sì. A onor del vero non lo dicevano neanche quando c'era Lucio, quindi insomma questa è una situazione un po' delicata, non, ecco. Però vabbè, insomma, lui c'era. Erano marito e moglie, cioè come si dice, stanno insieme, così, sì, che non sì, dirlo. Sì, stavano serenamente insieme. Poi fatti loro. Insomma, sì, appunto, poi qui è anche più delicato, perché siccome lui non lo voleva dire, è sempre quel confine tra outing e coming out che non si fa coi vivi, non si sente. Sì, ma ognuno può fare quello che vuole, sì, anche questo. Ecco, questo è un po' più complesso. Sì, devo dirti che poi dopo Crozza, un po' questa cosa era già vista, un po' eravamo tutti nella sbornia dei fischi, della contestazione. Secondo me è passata veramente come acqua fresca. Sì, è una nota di peinè proprio, i fidanzatini. Non... Allora, se uno vuol fare testimonianza e dire in questo momento io ho il coraggio di dire, in un paese bigotto, codino, pieno di pregiudizi, illiberale totalmente da questo punto di vista, fortemente complessato verso la libera espressione dell'affettività, dell'amore, della sessualità, lo dico, ecco, questa è una coppia di persone che sono due omosessuali che si vogliono sposarsi, in Italia non è permesso farlo, lo vanno a fare in un altro paese, dimostrano questo, l'avrei fatti parlare. Sembrano anche loro ridotti a carezzevole icona, a rappresentazione video della cartina dei Baci Perugina. Non so quanto serva la causa, poi fatti loro, gli è andata bene, probabilmente diventeranno dei personaggi adesso d'ora in poi, però non si è avuto il coraggio di arrivare fino in fondo. Concordo. Voi come in sala stampa che dicevate? Perché la sala stampa è la vera pancia, la cucina di quello che poi leggete il giorno dopo sui giornali. Sì, è il luogo poi più divertente di Sanremo. Sì, devo dire che appunto è passato come acqua fresca, perché noi quello sapevamo che sarebbe successo, ci aspettavamo un guizzo, ci aspettavamo qualcosa di più. Adesso appunto con un po' di ironia ti dicevo un po' di bacio. Però vabbè, insomma, qualcosa di più, qualcosa Sì, almeno una carezza, un bacetto potranno darselo, no? Sì, cioè non lo so, qualcosina, ma poi dice una palpatina, no? So che ovviamente poi verrò presa sul serio, però fuori di metafora, quello si era già visto, si poteva fare qualcosa di più. Sì, identico, quello c'è, ma una parola, aver detto qualcosa, coi cartelli, come se fossero muti, quando poi sei in un posto in cui puoi parlare, puoi dire la tua voce, non sei ammutolito, non lo so, poi ognuno gioca, sono campagne mediatiche, vedi, io e te ne stiamo parlando, quindi evidentemente il non dire suscita più attenzione, più dialogo e più dibattito del dire apertamente. Pierluigi. Buongiorno, volevo dire, ma qualcuno ha sentito le canzoni? Perché mi pare che questo sia il festival della canzone. Quando è stato mai il festival della canzone? No, mi scusi, perché mi è sfuggito questo particolare. Io parlo di Sanremo da almeno 15 anni, ma mai mi sono accorto che fosse il Festival della Canzone. Ci ricordiamo per Celentano, per il cassa integrato che salta la finestra, per Valeria Marini Chiambretti, per le parolacce, per le persone, per le eruzioni, per la politica, per Benigni, per Beppe Grillo che ha attaccato i socialisti. Ma quando mai ci ricordiamo per le canzoni? Non lo so. Allora gli dobbiamo cambiare nome, perché non può essere chiamato il Festival della Canzone quando si fa tutt'altro. Lei vede la sua suoneria del telefonino che l'accompagna come colonna sonora perenne, quindi può stare... Ma comunque, guardi, voglio darle soddisfazione. Allora, Andrea Amato, è in linea? Sì. Andrea Amato, direttore responsabile di tvzoom.it. Visto che l'ascoltatore ci richiama sulle canzoni, qual è stata la canzone che è stata seguita di più, secondo le curve di ascolto? Poi sai, può essere quello magari il momento del cambio del pannolone, non lo so, coincide con altre circostanze accessorie. Ma diamo per oggettivo il dato. Qual è il momento che è stato seguito di più? Canoro. Allora, il picco di share l'ha avuto Chiara Gagliazzo alle 24:21 con il 57,15%. Chiara Gagliazzo, la vincitrice di X Factor. Questo è stato il picco assoluto di share del Sanremo musicale, diciamo. Ecco, come lo interpreti te? Dunque, ieri è anche Martedì Grasso, quindi una fetta giovanile, pubblico televisivo, o si guardava Sanremo insieme con le frappe in mano, giocando e scherzando in feste casalinghe, o andava a Ramenga in giro di veglione in veglione a ammazzare l'ultimo giorno di carnevale. Beh, guardando il target degli ascoltatori Auditel, gli over 55 anni erano il 43%, quindi un pubblico molto molto adulto, quello di Sanremo. Chiara Gagliazzo comunque sia vincitrice di X Factor, Beniamina dei più giovani, comunque sia del target più giovane, anche accreditata tra le favorite. Quindi è quella che vincerà alla fine il Sanremo, può essere? È una di quelle papabili. Certo, è fantastica questa cosa che Sanremo ha sempre in sé la profezia del vincitore che galleggia, si dice nei primi giorni così. Poi invece dal punto di vista, il momento di irruzione, devo dire che a me ha divertito, anche perché era totalmente paradossale, è l'entrata di Toto Cotugno con l'armata rossa dietro, è stato un grande momento. È funzionato dal punto di vista dell'ascolto quel momento lì? È stato quasi sempre sopra il 50%, è entrato alle 23:51 con un 51,41% e se n'è andato col 58,69% a mezzanotte 07, quindi un buon risultato per il vecchio Toto. Sì. Quindi ha tenuto bene, aveva anche c'era un grande annuncio. Beh, non è poi da tutti portarsi dietro un pezzo di storia passata così palpitante, così vivace. Era la provocazione, pensa che molti dicevano, pensate all'Armata Rossa, al Festival dell'Unità, invece è stato esattamente l'apologia dell'opposto, è stata anche lì una sorta di... sembrava di vedere quei film tratti dai vecchi romanzi di Guareschi, sembrava il parroco Don Camillo che era Fazio e il sindaco Peppone che era Cotugno, a cui non credeva nessuno, si è portato dietro anche tutto il seguito dell'Armata Rossa. Melog, la realtà condivisa. Allora, non posso dire niente, neanche che due maroni quando... No, sono... quello proprio no, assolutamente. Che due meloni? No, niente. È tutta roba da par condicio, non si può. Che casino? No, casini? No, niente. Ma, allora. Vabbè, allora devo fare una letterina. Sì. Una letterina qua. A me? Per il padrone di... Notte. Il padrone di casa, Sanremo. Letterina saremo, Luciana. Allora. Sì, sediamoci qua. Devo fare la letterina, sì, non urlare Sanremo, subito, così che non possiamo tenere 5 giorni. Che mi protegga, sì, tanto. Sì. Carissimo Sanremo. Sì. Che nella Riviera stai, che proteggi i fiori, i festival e i casinò. Quindi ti occupi di... C'era tutto della recita all'oratorio, devo dirlo, è così. Ma è un immaginario anche divertente. Mi scrive un ascoltatore... Cosa capsio sono le frappe? Ma chiamatele chiacchiere come volete, io l'ho sempre chiamate frappe dalle mie transumanze, all'Umbria e al Lazio, qui le chiamano tutte frappe, sono le chiacchiere, sono quei dolcetti di pasta fritta che sopra ci si può mettere il miele, si può mettere lo zucchero a velo, ci si può mettere lo zucchero vanigliato, ci si può mettere le palline colorate, quello che uno vuole, ormai è quaresima, soltanto di cenere noi possiamo pascerci in questo giorno di mortificazione. Francesca. Oh, buongiorno. Io ho visto il primo Sanremo, e anche quello di ieri sera. Cioè il primo in assoluto, quello con Nilla Pizzi. Il primo in assoluto. Il primo c'ha 200 anni, quanti anni ha Francesco? Io ne ho 72 il 15 di febbraio. Ah beh, quindi non è tanto, pensavo più. No, no. Quindi l'ha visti tutti, non se ne è perso uno. No, ascolti, comunque io non me lo perdo mai, no? Perché comunque è un fatto di costume, se ne parla, lo si critica, eccetera, vabbè, ma io voglio anche vedere, no? Però ieri sera mi sono appisolata più volte. L'ho visto. Si è abbioccata. Mi dica i punti dell'abbiocco. Allora, al contrario di quello che ci dice Andrea Amato, che sono i dati di ascolto, lei mi dà l'auditel dell'abbiocco. Quali sono stati i punti di abbiocco? Prima abbiocco. Purtroppo anche dopo Gualazzi, che pure ha cantato una bella canzone. E si è abbioccata su Gualazzi, poi? Sì, dopo. E poi mi sono svegliata, prima ho parlato di Chiara, no? Sì. La prima canzone mi è piaciuta, mi pare sia Non parlo più, qualcosa del genere, no? E invece è passata la seconda che ha cantato. Beh, due volte non si può. Non si può, però... C'è stato un abbiocco anche sulla seconda canzone? No, poi mi sono svegliata un po', cercavo di star sveglia, volevo vedere fino a... Mi è piaciuto, allora, su Crozza secondo me non ha fatto niente sul Papa perché non gliel'hanno permesso, io non credo che... Lei voleva, fosse... sì. Sì, e poi ho notato in Crozza un po' di titubanza, non era più il Crozza così disinvolto dopo la contestazione iniziale. Beh, non dà gusto a nessuno, di solito poi un personaggio televisivo, quando va in televisione sei schermato, il pubblico è finto, e poi i pezzi di Crozza molte volte sono fatti in un altro ambiente rispetto all'ambiente dove sta il pubblico, ad esempio a Ballarò, quindi uno lavora tranquillizzato. E lì hai il contatto carnale, ritorni al tempo dell'attore di teatro che si può prendere il gatto morto in faccia. Ha sentito l'effetto gatto morto in faccia, che in effetti se non è pronto, non è abituato, può dar fastidio. Sì. Altri abbiocchi, mi faccia lo share. Ma non è l'abbiocco, questo mi ha risvegliato. Invece... Il coro dell'Armata Rossa con Toto Cutugno che ha cantato nel blu dipinto di blu. Le ha dato un brivido a quel punto. Ma sì, ma bello. Poi ha avuto un piccolo brividino. Invece, sì, diciamo, questa è una buona idea. I giovani omosessuali che si sposano a New York? Mi hanno lasciato così. Non mi sono addormentata, ma avrei potuto benissimo addormentarmi, perché quella cosa lì non mi fa né caldo né freddo, visto che se ne parla tanto e così. Vabbè. C'è una cosa che non so quale motivo. Ecco. Vabbè, sono motivi loro, scusi. A lei... Forse hanno messo i cartelli. Ma a lei danno brividi i fieri soldati dell'Armata Rossa, e a loro danno brividi guardarsi negli occhi e scambiarsi. Ma loro, secondo me, hanno messo i cartelli invece di parlare, il significato mio, poi sì. Io sono una così. Dico, forse è perché ha messo i cartelli, come dire, non possiamo parlare, non abbiamo grande voce perché in Italia non accade quello che vogliamo noi, dobbiamo andare. Sì, ma ancora non ho visto nessuno attaccato alla gru come succede in Iran perché dice sono omosessuale in Italia. È un paesaccio il nostro, da questo punto di vista, pieno di pregiudizi, di ipocrisie, stanno tutti nascosti lì, però non mi pare che al punto che erano lì potevano parlare, secondo me. Non so se erano microfonati, però non erano microfonati. Forse non si è voluto correre il rischio che non parlassero. Ma poi... Posso dire una cosa? Sì. In Italia, vabbè, sappiamo come sta andando adesso, tutto dalla scuola, qualsiasi cosa. Ma lei come va? A lei come va invece? Io sono una casalinga, io quello che facevo 40 anni fa lo faccio ancora adesso in modo molto più pesante. E cosa faceva 40 anni fa che adesso fa più pesante? Facevo la casalinga come adesso, però... pensavo chissà cosa alludesse. Diciamo. Avevo più respiro, adesso devo tirare la cinghia per far quadrare i conti. Vabbè, tutti dobbiamo tirare la cinghia. Ce l'ho fatta, però mi pesa questa cosa. Vabbè, adesso non faccia piagnisteo, parliamo di Sanremo, sì, lo capisco, è un male condiviso, sì. No. Siamo su Sanremo, comunque io dico, anche a proposito di questi due che vanno a sposarsi, sì. Io dico, in Italia non si parla tanto, ma in tutti i campi, di diritti, doveri. Chi è che dice, io ho il dovere? Quelli che hanno il dovere... Vabbè, basta, i pistolotti, dai, già stiamo sentendo qualcosa che ha in sé questa vena predicatorio parrocchiale, aveva cominciato bene, comincia a parlare dei doveri, Massimo, non c'è. Pronto, Carolina. Pronto? Ah, c'è Massimo, sì. Sì, pronto. Scusa che stacco il mio voce. Sì, bravo. Pronto? Eccolo. Allora, io volevo dire, no, alcune cose così. Dunque, innanzi sì. Parlo da Bologna e io di solito difficilmente negli ultimi 15-20 anni arrivo alla fine del Festival di Sanremo perché mi addormento prima sul divano, no? Mi abbiocco proprio. Beh, fantastico. Io ieri è stato un festival che mi è piaciuto. Non si è abbioccato ieri? Ieri non mi sono abbioccato, poi dirò anche di più, che io ho... Cioè, voglio dire, poi ognuno vede le cose dal proprio punto di vista, no? Quei due ragazzi gay che sì. Secondo di andarsi a sposare, cioè, sì. Vedete che il cartello, io l'ho interpretato come un... Cioè, mi è piaciuto anche molto, devo dire, perché il popolo degli omosessuali, dei gay, in Italia, no? Sì. Come diceva lei, è un paese bigotto e sì, compagnia sì. Bella. Sì, concluda. No? E viene considerato un paese, cioè un popolo che non esiste, invece sono tanti, no? Allora, esiste. Vabbè, non è vero. Allora, non è vero, sì, è un popolo molto rappresentato in televisione, molto rappresentato al cinema, molto rappresentato nei giornali, nella cultura. È un popolo esistente. Diciamo che banalmente non possono fare delle cose che gli altri possono fare, ma dal punto di vista dell'esistenza c'è un'infinità di pensiero importante, rappresentativo, portato avanti da persone omosessuali, quindi che siano esistiti, che siano inesistenti non è vero, non possono fare delle cose che sarebbe giusto che facessero. Andrea Amato, velocemente, vediamo un po', tiriamo una conclusione allora rispetto a questo festival. Oggi Fazio strappa champagne, tutto sommato, gli è andata bene? Assolutamente sì. Assolutamente sì, si è infilato nel solco tra scusate, il Morandi del 2011 e il Morandi del 2012, ha fatto uno share più basso ma un numero di ascoltatori maggiori. Ma l'introduzione della doppia è servita a qualcosa o ha portato danni? La doppia canzone, secondo te? Beh, non avendo altri colpi da sparare oltre Crozza, ha riempito la scaletta con tanta musica, questo l'aveva annunciato, insomma in momento di spending review non poteva sparare. Comunque è lunga ancora, ce ne sono ancora di serate, siamo solo alla prima e sì. il fiato secondo me è leggermente corto. Marta Cagnola, tu come la vedi? Io ti dico che ieri sera, tarda serata, con gli ultimi commenti col direttore di Rai 1, con un buffissimo cappello irresistibile, la sua domanda è stata: ma senti, ma lo facciamo il 41? E quindi, insomma, 48 mi pare che di sentire già da qua tappi che volano. Va bene, vedremo perché ancora alla fine c'è molto tempo, ma non vogliamo portare male, anzi auguriamo questo festival di essere sempre splendente e di evitare la curva degli abbiocchi il più possibile. A domani! Melog, la realtà condivisa.